Eccoci con Pierpaolo Palladino per Lost in Rome da oggi martedì 24 gennaio fino al 5 febbraio, due settimane in scena al Teatro Belli qui a Roma. Pierpaolo, ben ritrovato su queste frequenze. Buongiorno a voi, ciao ciao. Come va, tutto bene? Abbastanza bene, sono un pochino stanco perché insomma, essendo stasera il debutto, ieri abbiamo fatto un po' tardi con le prove generali, la tecnica, fino a quando non ci hanno cacciato dal teatro, non so che problema. Allora, cos'è questo Lost in Rome? Allora, Lost in Rome è un viaggio onirico nella Roma di oggi, tra ieri e oggi. Praticamente parto dalla classica crisi dell'intellettuale romano, di un giornalista che dovrebbe scrivere per conto del suo editore un articolo su Roma che sia ottimista sul futuro della città e che sia un po', insomma, una cosa di cartolina bene augurante, ma lui non ci crede assolutamente, conosce la realtà come un po' tutti quanti di Roma oggi così disastrata, e quindi non ha paura, entra in crisi su questo e si rende conto che Roma non la guarda più con gli occhi, diciamo, sentimentali, ma con l'occhio del pregiudizio dei palazzinari, di tutti quelli che ci mangiano, dei Buzzi, dei Carminati e di tutto quel che sappiamo e che hanno determinato anche l'esito delle ultime elezioni amministrative, se non che per una sorta di reazione psicologica e culturale inizio un viaggio un po' come 8 e mezzo, mi sono anche un po' ispirato a 8 e mezzo di Fellini, mi sono affidato alle poesie del Belli, alle poesie di Mauro Marecche, un autore, un poeta degli anni 70-80, che ha scritto delle cose straordinarie, anche abbastanza nichilista, ma anche molto divertente, un funambolo della parola del romanesco, e alle canzoni romane contaminate dai Pink Floyd, dai Queen, da Raffaella Carrà, dalla musica inglese e americana, da Tom Waits, ossia prova lui a rivivere in maniera immaginaria un viaggio su una zattera del Tevere che vola su Roma e che incontra varie zone di Roma e le rivive con gli occhi della memoria, del sentire, della sua cultura musicale, perché Roma è anche il centro musicale mondiale dove, insomma, tutti abbiamo conosciuto la musica americana, l'abbiamo ballata, l'abbiamo ascoltata, le cover, e quindi si unisce una radice di tradizione romana a più di musica più etnica, penso a Sellungotevere, a Ma che razza di città, che è una canzone di uno psicoterapeuta, Gianni Nibbiosi, che è straordinaria, e quindi anche delle scoperte, insomma, che io non conoscevo grazie a Sara Modigliani che mi ha dato una mano in questa ricerca musicale, e a quattro musicisti della Banda del Lucu che suonano magistralmente, e a Marcello Teodonio che è esperto di poesia, appunto, del Belli e di Mauro Marè, dei Romani in Russia di Elia Marcelli. Tutto questo diventa una giostra poetica e narrativa che gli fa riscoprire la cultura potenziale straordinaria che questa città oggi propone. Passando per invettive contro i palazzinari, contro la cementificazione, contro la corruzione, contro il fungo di Fuxias, che insomma Fuxias che non è pronto e pronto, ma non ci si può entrare, non si può vedere, non si sa che cazzo l'hanno fatto a fare. Tutto questo, che sembra una gran confusione, poi trova quasi miracolosamente armonia in questa ballata, rapsodica anche, musicale, narrativa, che dura un'ora, che interpreta Angelo Maggi con il quartetto in scena. E abbiamo fatto un'anteprima a Spinaceto, al Teatro della XII, che ci ha ospitato per l'anteprima. La cosa bella è stata il silenzio dell'ascolto, misto alle risate dove ci aspettavamo che avvenisse da parte del pubblico, Infatti l'ascolto è la prima linea dell'attenzione che si non pensa, non si accendevano neanche i telefonini. E per un tempo si diceva senti scartare la caramella, no? Adesso io non si è acceso manco, non si sono visti manco una mail, manco una foto, non si è vista manco l'immagine riflessa dello spettatore, no? Illuminato da sotto al telefonino con la luce verde che sembra un loculo marmoreo, no? Di quelli che è il segno del pubblico di oggi, no? Niente, zitti, tutti i telefonini spenti. Beh. È una cosa degna di nota. Degna di nota, appunto. Allora Pierpaolo, allora ripetiamo l'appuntamento Lost in Rome da oggi, da stasera, martedì 24 gennaio al 5 febbraio al Teatro Belli. Pierpaolo Palladino è un lavoro tuo, e poi chi ci sarà? Ci sarà Angelo Maggi, che il pubblico conosce per essere un attore di teatro, ma è conosciuto come il doppiatore di Tom Hanks, di Iron Man, di Bruce Willis, dei Simpson, faceva il Winchester, il commissario Winchester, insomma è una voce molto conosciuta, ed si è messo a disposizione completamente, canta, recita, ballicchia. E poi c'è la banda del Lugo, appunto, questo quartetto che io ho scoperto in giro per i locali, sì, insieme a Maddalena Focacci, che è una giovane violinista, la nipote di Adolfo Celli, che debutta come violinista con me a teatro. E questo è l'incontro poetico e musicale e narrativo, perché poi alla fine lui riesce a venirne a capo e a tornare a guardare le stelle, come nel finale di una nota commedia, Divina Commedia italiana. E infatti l'ultimo brano che cantano è Sotto un manto di stelle, con cui chiudiamo lo spettacolo. Bello è vedere le poesie del Belli con la musica di Jesus Christ Superstar, cioè delle contaminazioni che sembrano gratuite, in realtà poi non lo sono, sono giustificate, almeno noi riteniamo che siano tali. Vedere e ascoltare per credere. Noi stiamo tutte le sere lì, domenica alle 17.30, se no tutti i giorni alle 21, tranne la domenica, e dura 1 ora e 10 e passa la paura.